Siamo con Marco Paciotti, uno dei curatori della nona edizione di In Europe, Festival di Teatro Urbano e Nuovo Circo a Roma, in due luoghi differenti: la scalinata monumentale del Museo della Civiltà Romana all'Eur il 24 e 25 agosto e Piazza San Cosimato a Trastevere il 30 agosto. Marco, ben trovato. Ciao, ciao a tutti. Raccontiamo cos'è In Europe. In Europe è un evento multidisciplinare, è un festival che ogni anno porta a Roma delle realtà e delle compagnie della scena contemporanea nelle arti performative. Quest'anno, come già hai detto, il festival si svolge in due location distinte. Il 24 e il 25 saremo all'Eur, all'Arbagnelli, mentre il 30 a Piazza San Cosimato. Il tema di quest'anno è parliamo di identità, e quindi un po' il sottotitolo del festival è Punti di vista, collegato alla declinazione delle differenze. Altre cose, il 24 e il 25 la serata inizierà alle 21:30 gli spettacoli, mentre dalle 19:30 si potrà lì sulla piazza fare un aperitivo con la chef Bauerman. Ma gli spettacoli inizieranno dalle 21:30 con margine operativo, Beautiful Borders, una performance di teatro danza, sempre sul tema dell'identità e sul problema dell'altro e di confini. E alle 22 ci sarà Terra Mia, un'anteprima internazionale, sempre incentrato sul tema delle differenze, dell'identità. Sì. Senti, nel complesso, Marco, quanti sono i lavori presentati in questa edizione? Molti spettacoli, perché poi il 30 ci sono una serie di spettacoli invece a San Cosimato, che all'interno del teatro in strada, come lo chiamiamo noi, cioè non teatro di strada, ma teatro in strada, sono compagnie che vengono non solo dall'Italia, quindi abbiamo spettacoli di performance di circo, delle performance di teatro di prosa, di danza, poi abbiamo circo contemporaneo ancora. Più rivolta alle famiglie e anche ai ragazzi più piccoli, quella di San Cosimato, mentre nel 24-25 lo spettacolo ha un corpo differente. Sì. Senti, nelle 3 giornate da che orario si parte a che orario si arriva? Allora, il 24 e il 25 gli spettacoli iniziano il primo spettacolo alle 9:30, 21:30 e il secondo alle 22. Mentre il 30 partono gli spettacoli partiranno dalle 16 e si alterneranno fino alla chiusura, che è intorno alle 19:30. Ok, in chiusura per tutti i riferimenti ci dai qualche indirizzo web? Certo, potete trovare tutte le informazioni e il programma e tutto quello che vi può interessare per il nostro festival sulla pagina internet che è ineuroff.it, www.ineuroff.it, o se no seguire sempre il festival sulla pagina Facebook che è Ineuroff by Onda d'Urto Teatro. Benissimo, allora un saluto e un ringraziamento a Marco Paciotti della nona edizione di In Europe, Festival di Teatro Urbano e Nuovo Circo, a Roma in due luoghi differenti, la scalinata monumentale del Museo della Civiltà Romana all'Eur il 24 e 25 agosto, Piazza San Cosimato a Trastevere il 30 agosto. Marco, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Ciao, Ciao. grazie.